Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Mercoledì 26 novembre, benvenuti a Salva Danaio da Valentina Furlanetto. In Italia lavorano 700.000 badanti e 630.000 sono straniere. L'assistenza della famiglia quindi in Italia è affidata da diverso tempo a colf, babysitter e badanti straniere, con le quali il nostro sistema assistenziale regge. Il fenomeno è molto italiano. Molte lavorano in regola, altre invece sono clandestine. Molte famiglie italiane sono in attesa di regolarizzarle e il decreto flussi 2007 non è bastato. Siamo in attesa a giorni, a momenti del decreto flussi 2008. Intanto con il Sole 24 Ore in uscita venerdì 29 l'agenda Badandum 2009 curata dai nostri ospiti di oggi che sono Francesca Padula, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. E Vito Notto, direttore medico presso l'Istituto Geriatrico Pio Albergo Trivulzio di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Il numero per chiamare se avete qualche domanda, consiglio o esperienza da raccontare è sempre l'800240024 oppure per mandarci un sms 349-238-6666. Ma prima di tornare al nostro tema principale affrontiamo questa mattina la borsa in ribasso, apertura in ribasso per le borse, poi hanno tentato i listini di alzare la testa sulla scia anche del taglio dei tassi da parte della banca centrale cinese, ma ora sono tornate in terreno negativo sui livelli dell'apertura, in attesa anche di capire i dettagli del piano di sostegno dell'economia che sarà varato oggi dalla Commissione europea. Tra l'altro segnaliamo oggi c'è stata un'affermazione del presidente della BCE Trichet che ha detto siamo pronti ad abbassare i tassi. Nell'attesa le borse appunto negative, Francoforte meno 1,42%, Parigi meno 2,21%, Londra meno 2%, a Milano va leggermente meglio, meno 0,62% per il MIBTEL, meno 0,83% per il MIB30. Si attende anche di approfondire come si muoverà la commissione sul settore dell'auto, anche se ormai tutto lascia supporre un rinvio dal 2012 al 2015 per ridurre le emissioni, che sta dando fiato ai titoli del settore, e anche Fiat è in rialzo, la migliore del listino in questo istante con un rialzo del 3,56%. Segue Impregilo e Italcementi. In progresso anche Telecom Italia, più 2,65% in attesa della decisione dell'autorità per le telecomunicazioni che oggi si pronuncerà sulla rete di cavi dell'ex monopolista. Il Sole 24 Ore di oggi scrive inoltre che Telecom sta valutando operazioni straordinarie e sul tavolo ci sono due opzioni, scorporo della rete o cessione di Trim Brasil. Per quanto riguarda invece i titoli legati all'energia e i titoli delle utilities, lo dicevamo anche durante il collegamento nel nostro GR, sono negativi, Terna meno 4,89% e poi trasmissioni elettriche meno 4,8%, Saipem meno 3,83%, anche Eni negativa meno 1,98%, Enel meno 1,25%. La notizia che ci sarebbe un possibile taglio dei costi per l'elettricità e per il gas penalizza un po' questi titoli. Buone notizie sul fronte Euribor, è già qualche giorno che vediamo che questo tasso scende, il tasso interbancario a tre mesi è sceso ai minimi da 20 mesi passando da 3,94 di ieri a 3,90, che rappresenta il livello più basso dal 21 marzo 2007, quindi ancora buona notizia per chi ha stipulato un mutuo. Torniamo a parlare di badanti. Badanti perché il nostro paese senz'altro invecchia, senz'altro ha bisogno di chi si occupi di questi anziani. L'Italia, Francesca, è un paese per vecchi? Sì, l'Italia è un paese per vecchi e per badanti. Lo dicono i numeri, come tu dicevi prima è un fenomeno abbastanza tipico dell'Italia, che è il paese più vecchio dell'Europa, con la più bassa fertilità dell'Europa e addirittura secondo le previsioni dell'Istat tra 5 anni, nel 2013, quindi non tra moltissimo tempo, l'11% della popolazione avrà più di 75 anni quindi vuol dire che un cittadino ogni 10 avrà bisogno di cure assistenziali continuative. Ma già noi lo vediamo nelle nostre città, molti anziani sono accompagnati da badanti, sono accompagnati da donne straniere, perché per il 90% le cure domestiche e assistenziali sono affidate al lavoro delle donne straniere. Come tu dicevi, molte non sono regolari, ma alcune potranno diventarlo grazie al decreto flussi 2008, che ripescherà un certo numero di badanti, di domande, di assunzione, 100 o 125.000. Quindi noi abbiamo voluto fare questo libro, questa agenda per le famiglie e per le badanti, per accompagnare, diciamo, questo il lavoro delle badanti. È un libro tradotto in 8 lingue proprio per contribuire ad aiutare la figura delle badanti. Quindi un'agenda che troveremo in edicola da venerdì. Vito Noto, direttore medico presso l'Istituto Geriatrico, l'abbiamo detto, più Albergo Trivulzio di Milano, anche lei ha curato questa guida, una parte di questa guida. Perché dedicare una guida alle badanti e ai datori di lavoro delle badanti? Ma guardi, il perché è insito proprio nella mia professione di geriatra. Io ho un interesse al fenomeno dell'immigrazionismo, ma devo dire che ciò che mi ha spinto a quest'opera è stato essenzialmente la necessità che noi in geriatria abbiamo di dare dei servizi a quella parte di anziani che ne sono molto sprovvisti. Quando noi in geriatria parliamo di anziani, ci riferiamo a un 96-97% che in genere non hanno bisogno di nulla o hanno bisogno di poco, ma c'è una fascia di popolazione del 3%, 3,5%, 2,8% all'incirca che hanno bisogno di tutto per attendere agli atti della vita quotidiana. Cosa vuol dire? Vuol dire mangiare, vuol dire vestirsi, vuol dire le funzioni corporali, vuol dire spostarsi dalla carrozzina al water, dal letto alla carrozzina. Sono i cronici non autosufficienti. E finché non avevamo la possibilità in casa di avere un referente, una persona anche che fisicamente apre la porta di casa, noi come servizi di assistenza domiciliare eravamo completamente impediti, bloccati. L'arrivo di queste, io le chiamo madri migranti dall'est, chiamate badanti, credo che venga a rappresentare una risorsa ineludibile, importantissima, proprio per fronteggiare quella porzione di anziani. Pensate che su 3 milioni circa che sono questi cronici non autosufficienti, soltanto 260.000 sono nelle case di riposo, il che vuol dire che 2 milioni e 700 circa gravano sulle spalle della famiglia. Allora dobbiamo aiutare la famiglia in qualche modo e le cosiddette badanti rispondono a questa esigenza. Quindi 800 24 00 24 per intervenire. Il tema di oggi, lo abbiamo ripetuto, è le badanti, anche in previsione dell'uscita venerdì con il Sole 24 Ore e per i prossimi due mesi dell'agenda Badandum 2009. Ma sentiamo qualche spunto di più di riflessione, anche di discussione, in questa scheda. La popolazione italiana invecchia e il numero delle famiglie che ha bisogno di aiuto nell'assistenza dei propri cari è in costante crescita. Oggi in Italia le badanti sono circa 700.000 e di queste circa 630.000 sono straniere. Per questo una quota consistente del decreto flussi, ancora allo studio del governo, dovrebbe essere riservata proprio al lavoro domestico. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, fino al 31 maggio del 2008 sono state presentate 418.963 domande di assunzione per colfe badanti, a fronte di 65.000 posti messi in palio dal decreto. E a causa della forte domanda, il governo sta pensando di riprendere in considerazione i moduli già presentati nel 2007, evitando quest'anno una nuova corsa telematica per guadagnare le prime posizioni. Dati alla mano, si tratterebbe quindi di 207.000 quote da ripescare nella graduatoria delle domande valide presentate entro il 31 maggio scorso. Domande, è bene ricordarlo, relative a colfe badanti che nel 90% dei casi sono già in Italia, impiegate presso famiglie italiane. anche se, secondo la legge, dovrebbero in realtà trovarsi all'estero e ottenere di entrare nel nostro paese legalmente proprio attraverso il decreto flussi. Se queste domande fossero accolte, quindi, anche il fisco e l'INPS ne beneficerebbero, trattandosi in effetti di regolarizzare lavoro nero, che non paga le tasse e non versa contributi. Secondo un metodo di calcolo utilizzato dal Sole 24 Ore, si possono stimare infatti fino a 88,3 milioni di IRPEF, comprensiva delle addizionali comunali e regionali, e 263,4 milioni di contributi INPS. Insomma, oltre ad aiutare i nostri cari, le badanti potrebbero fare del bene anche alle casse dello Stato. Quindi lo avete visto dai numeri, le famiglie italiane, prendo dati del Sole 24 Ore, spendono 1,73 miliardi annui pagati alle lavoratrici escluse dal decreto flussi 2007, c'è una minor spesa rispetto al costo di ricovero degli anziani, utilizzando, avendo alle proprie dipendenze una signora, una badante, e poi anche ci sono questi dati che riguardano il fisco e l'INPS. Per continuare la nostra discussione, diamo subito spazio agli ascoltatori che ci chiamano all'800 24 00 24. Mariella da Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei, chiamo da Senigallia, provincia, sì, di Ancona. Prendo atto di quanto avete appena detto e poi uno spunto e una riflessione ulteriore. Io sono presidente della FIDAP, è un'associazione internazionale, ma non è questo. E sono 2 anni che qui portiamo avanti, nella nostra piccola realtà cittadina di provincia, un corso di formazione per badanti. Insieme a noi collaborano le istituzioni, quindi il Comune, l'ASUR, la Croce Rossa e le case protette, per le case di riposo per anziani. Questo vuol dire che noi formuliamo un corso di 80 ore con diversi moduli, tra cui anche la cucina, perché è una realtà che queste donne che arrivano con culture diverse non sanno ad esempio usare molto il pesce, non sanno pulire una soglia, non sanno pulire un merluzzo, che è un alimento base per i nostri anziani. Ma questo, detto questo, al di là del contenuto del nostro corso, che potrebbero, per noi sono validi, è che noi ci dobbiamo rivolgere soltanto alle donne con permesso di soggiorno regolare, e sappiamo che è una incongruenza, perché la realtà è tutt'altro, cioè quelle che hanno permesso di soggiorno sono qui da noi da 10 anni, quindi sanno già parlare, si sono inserite, sanno pulire la soglia. Adesso voglio essere riduttiva. Quindi, a parte pulire la soglia, lei dice sarebbero le clandestine che magari hanno meno competenze ad essere più, che hanno bisogno, che arrivano, che nei loro paesi hanno, non so, fanno tutt'altro, arrivano qui, non hanno. Quindi cosa suggerisce Mariella? Ecco, allora io suggerisco, com'è possibile aiutare queste donne, aiutare le famiglie, aiutare noi stessi, perché noi le donne che arrivano fanno un corso, quindi sono anche una garanzia per le famiglie, perché noi adesso sappiamo anche da una nostra indagine che non c'è più neanche il filtro cosiddetto della Caritas, delle parrocchie, cioè tra di loro una chiama l'altra, arrivano, le famiglie sono prese con l'acqua alla gola, cercano queste badanti, inseriscono, si portano in casa, ma non in casa loro, mettono in casa dei propri familiari che spesso abitano anche lontano, delle persone così ignare di tutto, e non si sa poi queste che cosa fanno. Allora, come possiamo fare? Io lo chiedo, come possiamo, o allarghiamo questi flussi in modo che queste donne arrivano, noi ci attiviamo come istituzioni, facciamo dei corsi, diamo un minimo di preparazione nel settore e abbiamo anche noi un minimo di garanzia. Grazie Mariella, perché è uno spunto importante sicuramente, però ricordiamo anche che la realtà è che ci sono molte donne clandestine, però si rischiano anche delle sanzioni, le famiglie, i datori di lavoro rischiano delle sanzioni. Francesca. Assolutamente sì, questo è importante ricordarlo, perché magari molte famiglie non sono al corrente, però rischiano una reclusione da 6 mesi a 3 anni, secondo le ultime norme, e una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore occupato. Certo, non ci sono dei controlli nelle famiglie, quindi molti si sentono al riparo, però la realtà è questo, quello che diceva la signora. È giusto, è vero che la maggior parte sono senza permesso di soggiorno. In realtà quello che noi poi abbiamo cercato di fare anche nell'agenda in Badanti referendum e dare un supporto normativo. Quindi, poiché la famiglia deve gestire un vero e proprio rapporto di lavoro e quindi l'avvertenza di verificare il permesso di soggiorno se la badante è straniera è una delle primissime cose da fare, è una guida questa dell'aspetto normativo che noi abbiamo cercato di dare, perché è un vero e proprio rapporto di lavoro che la famiglia deve gestire, quindi deve avere tutte le istruzioni, sapendo appunto che bisogna concordare lo stipendio ma anche le ferie, gli straordinari, i riposi, che cosa succede in caso di malattia, una serie di diritti e di doveri da rispettare proprio perché la convivenza sia pacifica. Quindi nell'agenda trovate tutta questa serie di indicazioni anche legislative oltre a quelle sanitarie, un po' più di cura dell'anziano. Vito Noto, tra l'altro in questi giorni si riuniscono proprio i geriati italiani in un congresso a Firenze. Questi geriatri, ho letto in un'agenzia di ieri, sostengono che il sistema sanitario è inadeguato in Italia a fare fronte all'assistenza agli anziani. È d'accordo? Abbastanza. Se permette, vorrei aggiungere una cosa al quesito della Mariella. Prima, se ancora in ascolto, e cioè diceva ci mettiamo in casa donne di cui non sappiamo nulla, però qualcosina possiamo fare, il cosiddetto incrocio domanda-offerta lo possiamo fare anche col fai da te, voglio dire un colloquio con il prestatore d'opera candidato a essere badante, un colloquio con la famiglia di Senigallia, la signora di Senigallia candidata a essere la domanda, può portare a individuare quelle caratteristiche, quei requisiti che possano dare opportunità alla famiglia, quindi alla domanda e alla futura badante e quindi all'offerta. Esistono poi, e l'agenda lo rappresenta nell'ultima sezione, quella dei numeri utili, tutti gli sportelli badanti che sono attualmente pubblici, attualmente attivi, quindi funzionanti in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia, e sono anche esemplificati il numero di telefono, il fax, l'email, i giorni d'apertura. Circa il quesito invece che mi diceva... Sì, Mariella non è tra l'altro più in linea, quindi le abbiamo risposto via radio. Va bene. Ecco. Sì. L'altro, sono abbastanza sconfortato anch'io nel dire che effettivamente non è rosea la situazione. Da quando il pagamento della retta è a DRG, negli ospedali si cura con attenzione laddove l'opportunità economica è elevata, questo è così, per cui per esempio nel mio istituto, che è un istituto di riabilitazione geriatrica, dove approdano gli anziani che provengono dall'ospedale per un fatto acuto, devo dire che molto spesso arrivano poco o mal curati, ma questo lo dico, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, e il motivo ce ne sono tanti, fra questi sicuramente che un anziano che occupa un letto e che non è in quel turnover iniziale in cui DRG è alto non è produttivo, e quindi lo scenario è abbastanza sconfortante, ci lascia però una porta aperta per cercare di fare una geriatria territoriale, quindi di residenzialità domiciliare, non soltanto istituzionale, non soltanto alberghiera a livello ospedaliero, e per cui credo che dobbiamo impegnarci per rifondare e di nuovo essere pionieri di una assistenza e di un lavoro di cura a domicilio, dove questa nuova risorsa credo che possa recitare un ruolo non indifferente. Bentornati a Salva Danaio da Valentina Furlanetto. Oggi parliamo di badanti, in attesa che venerdì esca questa agenda curata dal Sole 24 Ore Badandum 2009, nella quale ci sono degli spunti, delle indicazioni e dei suggerimenti per chi ha le proprie dipendenze una badante, oppure proprio per le signore che fanno questo lavoro. Allora, Francesca Padula, che ci sta aiutando, collega del Sole 24 Ore, a districarci in questo questa matassa. Ci sono anche dei consigli e delle indicazioni legislative importanti? Ad esempio, facciamo qualche esempio, nel caso della malattia, chi paga? Allora, quello del lavoro domestico è uno dei pochi casi in cui la malattia non è coperta dall'INPS. Quindi il datore di lavoro paga naturalmente solo per un numero limitato di giorni che dipende dall'anzianità di lavoro, quindi dal periodo che la badante ha fatto. Per i primi 3 giorni la retribuzione è globale, cioè la copertura deve essere il 100% della retribuzione, poi successivamente si riduce questa percentuale. Ci sono tutta una serie di altri diritti della badante, della colf, che sono chiariti. C'è un contratto nazionale di lavoro, che tra l'altro è abbastanza recente, che prevede 8 livelli, 8 categorie, quindi un inquadramento piuttosto differenziato in base ai compiti, in base alle persone che vengono assistite, appunto se sono se si tratta di persone autosufficienti o meno. E un'altra divisione riguarda appunto anche la specializzazione della badante, quindi se la badante ha una formazione specifica o meno. Questo è tutto quello che fa cambiare lo stipendio. Perché a volte, insomma, si pensa di affidare i propri anziani a una badante, ma ricordiamoci che esistono anche i Natali, le ferie, esatto, e quant'altro, anche per queste persone, no? Quindi esistono delle retribuzioni per le festività, esistono delle regole precise per quanto riguarda il riposo settimanale e anche eventualmente i compensi se il riposo non può essere svolto. Quindi esiste una serie proprio di diritti che devono essere, tra l'altro noi l'abbiamo spiegato nell'agenda, che il momento fondamentale è proprio quello dell'inizio, quindi dopo il colloquio, che come diceva il dottor Noto è molto importante per capire proprio se c'è feeling tra la persona da assistere e la badante che si sta selezionando, scegliendo. Poi c'è un periodo di prova a cui può essere sottoposta la persona che lavorerà in casa con l'anziano, e poi appunto ci sono tutta una serie di diritti e doveri. La cosa più importante è mettere per iscritto il maggior numero possibile di queste informazioni, di questi punti su cui si raggiunge l'accordo, perché così si evita poi di litigare. Allora, parliamo anche con il dottor Vito Noto, che ci sta anche lui aiutando, che è anche lui uno dei curatori dell'agenda, direttore medico presso l'Istituto Geriatrico Pio Albergo Trivulzio di Milano. Volevo chiederle, ma qual è la competenza specifica di una badante rispetto a un'infermiera? E poi le trova preparate le badanti per sua esperienza? La competenza specifica è un macello. È veramente un coacervo di cose, tant'è che, guardi, posso anticiparle, abbiamo presentato un progetto che è stato recepito e anche finanziato dalla provincia di Milano, che si chiama Il Laboratorio, diritti, doveri, competenze, responsabilità e risorse per l'aiuto a domicilio. Vale a dire, stiamo cercando di mettere intorno a un tavolo i consulenti, delle persone d'eccellenza nell'ambito dei consulenti del lavoro, dei giuslavoristi, avvocati, sindacalisti, pubblici amministratori, eccetera, per mettere in piedi una piattaforma che vada a profilare un mestiere nuovo che non c'è. Per cui attualmente la badante è una miscellanea fra donna di pulizia, accuditrice, infermiera generica e via dicendo. Di fatto sappiamo poco, dobbiamo profilarlo questo mestiere. Devo però dire questo, che è sorprendente come per esempio molte donne che provengono dall'est siano brave e nell'accudire, in manovre prettamente infermieristiche, pur non avendo diploma, a parte il fatto che molte poi hanno anche il diploma. Quindi si tratta di mettere chiarezza e capirci bene su questo ambito, ma diventano sempre più una risorsa e ci sorprende. La cosa che mi preme dire però, che noto spesso un grande divario, quindi una grande incongruenza fra le competenze di queste donne cosiddette badanti e i familiari. Cioè i familiari non diamo per scontato che sappiano le cose che sono sull'agenda, tant'è che questa agenda è per loro, eventualmente spero che la regalino alle loro badanti, ma c'è una disinformazione su questo campo assoluto, ma anche a livello medico. Qui mettiamo dei consigli nell'agenda che sono anche di buon senso e anche sanitari, non so, per esempio in presenza di gradini dotare di rampa l'ingresso dell'edificio. Allora, o lo si fa o non lo si fa, ma questo è fondamentale farlo. Un altro esempio, illuminare il percorso tra la camera da letto e il bagno. Sapete quanto incide la caduta e poi la frattura di femore nelle spese sanitarie mondiali? Una cifra esagerata, e basterebbe... E questi sono alcuni degli esempi che trovate nella nostra agenda. Diamo spazio anche agli ascoltatori. Carla dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo più che altro per la regolarizzazione della badante di mia mamma. Sono entrata nei flussi del scorso anno e la risposta purtroppo mi è arrivata in questi giorni. Non si può regolarizzare l'ammissibilità Schengen da parte della Germania. Ora, io so che 4 anni fa la signora aveva cercato di entrare in Europa ed è stata bloccata e rimandata a casa, l'hanno segnalata evidentemente. Io ci terrei a regolarizzarla questa signora. Ci terrei da morire perché è bravissima, con mia mamma ha un feeling eccezionale. Quindi signora Carla, ha avuto un'espulsione la signora che ha le sue dipendenze? Sì. Ecco, cosa posso fare? Posso fare qualcosa? Io so i rischi a cui vado incontro se la tengo e ho intenzione di tenerla e di andare incontro eventualmente ai rischi che ci sono. Cioè, cerco di tutelarmi chiaramente, però vorrei proprio, perché questa signora ha anche la necessità di andare a casa, di vedere la sua famiglia, cosa che non fa da 4 anni. Grazie Carla. Francesca Padula. Sì, ne abbiamo parlato, mi sembra, proprio nell'ultima trasmissione, c'era un caso analogo. In questo caso il decreto di espulsione arriva dalla Germania, se non sbaglio, quindi comunque è valido nell'area Schengen. La volta scorsa si trattava di una persona che aveva ottenuto l'espulsione in Italia. È una procedura molto lunga, in realtà devono sicuramente tornare nel paese di origine e lì si può chiedere comunque un visto di riammissione in Italia. Ci sono tempi lunghi, signora, lo so, perché la settimana scorsa ne abbiamo ripetuto e la norma è assolutamente questa, quindi ci deve essere proprio una procedura, va sottoposto ad un esame che è piuttosto complicato, credo che non sia nemmeno certo il risultato. Carlo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Volevo segnalare questo fatto. Io l'anno scorso mi sono appoggiato a un patronato per assumere una badante moldava. L'assunzione prevedeva il rispetto della priorità di presentazione delle domande in via telematica. Il mio patronato, o forse anche il Ministero degli Interni presso cui bisognava fare domande, hanno avuto dei problemi di tipo elettronico legati alle comunicazioni, per cui tutte le domande che questo patronato ha fatto sono state inoltrate nel primo pomeriggio invece che alle 8 di sera. Patronato di mattina, sì. Scusate, quindi sono arrivate più in ritardo. Sì. Sì, esattamente. Allora, se adesso il governo riapre i flussi 2007, queste domande comunque non passeranno mai, perché se ne hanno assunte 70.000 e le domande erano 400.000, ci saranno ancora tra le 8 e 5 l'ora in cui sono arrivati e le 14 l'ora in cui è stata presentata la domanda del mio patronato altre 100.000 persone. Lei non ha avuto risposta ancora? Allora, la risposta del patronato è che ha fatto ricorso al TAR. Il TAR il 16 dicembre. Allora è proprio il caso di cui parlavamo la volta scorsa, Carlo. Sì, c'è stato un grosso problema a Milano, un problema informatico, vero Francesca? È un problema che si è verificato soprattutto a Milano, ma devo dire poi in tutta Italia, per la eccessiva lunghezza dei cognomi dei lavoratori che provenivano dallo Sri Lanka, no? E io in realtà suggerirei a tutte le persone che hanno fatto domanda in ritardo per questo motivo di non perdere la speranza, di aspettare, di essere fiduciosi, perché allora le domande, sì è vero, per il lavoro domestico sono state 400.000, però è stato rilevato un tasso di errore abbastanza alto, del 35%. Le domande valide, secondo le stime che il Sole 24 Ore ha fatto, sono poco più di 200.000. Allora, è vero che il decreto flussi 2008 potrebbe arrivare a 125.000 e ne resterebbero comunque fuori, però dipende poi dalla provincia e dalla nazionalità della badante che si vuole assumere, per cui se il signore che è appena chiamato è in una provincia in cui la signora moldava che deve assumere rientra nelle quote, lui può avere delle buone chance indipendentemente dall'orario, ecco. Egidio da Padova, buongiorno. Buongiorno, niente, vi rubo un minuto per raccontare la mia storia, che penso sia abbastanza significativa di quanto assurda è l'attuale normativa. Nel dicembre del 2006 mia madre fu strappata alla morte, di conseguenza a gennaio assumemmo una signora moldava, una trentenne moldava, come badante. Questa trentenne nel contempo è diventata la mia compagna e la madre di mia figlia. E abbiamo fatto naturalmente la domanda nel dicembre del 2007 tramite il patronato Acli di Padova e faccio presente che siccome era dovuta rientrare in patria per suoi motivi di famiglia, era anche effettivamente una delle poche persone che realmente si trovava in quel momento nel suo paese. Mia madre il 4 maggio del 2008, grazie anche all'ospedale di Padova, ma questa è un'altra storia, è mancata. La mia compagna per rientrare, per far nascere la mia bambina in Italia, ha dovuto regalare 4.000 euro ai criminali che gestiscono queste cose. Vabbè, io ancora, adesso, 26 novembre, non so nulla di quella domanda. Egidio, la ringrazio, ho capito un po' la questione e capiamo anche il suo sconforto, però insomma criminali non è proprio il termine. Comunque... Bentornati a Salva Danaio, avevamo in collegamento prima della viabilità Egidio da Padova che ci parlava della sua situazione, della badante della madre, poi la madre è venuta a mancare successivamente o contemporaneamente questa signora è diventata la sua compagna, la madre di sua figlia. Non abbiamo capito esattamente, cerchiamo adesso di ripristinare il collegamento con Egidio, a chi si riferiva quando dava dei criminali. Comunque una situazione un po' intricata, Francesca, tra l'altro si riferiva alla domanda del 2006 e ora vorrebbe farla 2006, rientrare 2006 o forse all'inizio del 2007. Comunque, ecco, quello del problema delle lungaggini di queste pratiche del decreto flussi è un problema più volte sottolineato, più volte sollevato. Del 2007 sono al momento state completate il 60% delle pratiche. In realtà la Bossi-Fini prevede 40 giorni di tempo per l'esame e per la per il perfezionamento della procedura. Adesso noi a 320 giorni dal famoso click day di dicembre dell'anno scorso sappiamo che è stata portata a termine più o meno il 60% delle domande. Bisogna aspettare, io penso che le domande del decreto flussi 2007 prima di aprile del 2009 non saranno completate, si sovrapporrà il decreto 2008 in arrivo. Egidio è in collegamento? Sì, buongiorno. Ha sentito. Niente, io avevo anche mandato un messaggio perché avevo capito l'equivoco. Quando parlavo di criminali mi riferivo a quelle organizzazioni che si occupano purtroppo di portare illegalmente. Ho capito, allora avevo capito male io, mi scuso. La salutiamo, grazie. Nicca da Palermo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io desideravo mettere in evidenza un altro lato della questione badanti. Io sono un amministratore di sostegno e quindi relaziono il Tribunale sui costi effettivi di queste badanti. Nel caso specifico non si può tenere una badante, sono ammalati di Alzheimer, quello di cui io sto parlando, quindi non possono avere una sola badante, ne devono avere almeno due perché non si possono fare 24 ore di seguito. E dopo di ciò le dico che il costo è di circa 16, costo come stipendi è di circa 16.000 euro l'anno. I contributi vanno all'incirca sui 1.700 euro, 1.800. In più bisogna avere la persona che si occupa delle pulizie materiali, perché la badante con contratto non segue l'andamento della casa, tranne che per la stanza della persona ammalata a cui rifà il letto, per la pulizia personale della persona e per il cibo. Allora a questo punto io chiedo, perché sul 7.30 mi si dice non possiamo riconoscere che 2.100 euro? Perché se non sono infermiere specializzate non viene riconosciuto il costo di queste badanti. C'è un contratto, sono divise in 8 livelli, quindi perché non cerchiamo di venire incontro a chi tiene i propri ammalati a casa? Grazie Nicca, grazie per averci raccontato la sua esperienza. Francesca? È vero, la signora dice una cosa assolutamente reale, i costi sono molto elevati, la deduzione fiscale è molto limitata, probabilmente anche nel pacchetto per la famiglia che il governo ha allo studio in questo momento si poteva prendere in considerazione questo aspetto, ma probabilmente è un aspetto, devo dire appunto la signora che è un amministratore di sostegno, quindi che è un aspetto che pochi sottolineano, che pochi hanno portato avanti anche dal punto di vista così sindacale. Non è stato un problema molto fatto sentire, quello dell'assistenza domiciliare e dei problemi legati alle persone che lavorano. Dottor Vito Noto, ha sentito la nostra ascoltatrice, sì, infermiera? Una cosa anche molto interessante quando ha detto non è possibile che una sola badante per un paziente Alzheimer possa essere sufficiente. Ha ragione, abbiamo provato, c'è stato un articolo recentemente sul Sole molto molto bello, una badante in condominio. Abbiamo fatto un'esperienza a Torino in tal senso, abbiamo raggruppato in un condominio tre persone gravemente croniche o antisufficienti, di cui una era Alzheimer, e abbiamo gestito questi tre anziani che da se fossero andati in casa di riposo avrebbero comportato come minimo una spesa complessiva di 8.500 euro al mese, con due badanti, una di notte che si alternava con un'altra e una di giorno che gestiva anche un piccolo budget, per cui, anzi una e mezza diciamo, per cui con lo stipendio di due badanti e mezzo siamo riusciti a far convivere e dare una qualità di vita sicuramente migliore che non le istituzionalizzazioni permanenti, tre persone gravemente croniche, di cui un Alzheimer. Fabio da Verona, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dunque, posso parlare? Certo, dica. Allora, io facevo una considerazione dopo aver sentito tutte queste belle parole. Io ho 87 anni, monocolo, con una frattura al femore che ovviamente mi impedisce di essere il giovane che era una volta. Io parlavo, cioè volevo dire questo, se io dovessi essere ricoverato in una casa di ricovero, cosa costa allo Stato? Cosa costerei allo Stato? Io avrei bisogno di una donna, perché a 87 anni non si può più avere lo spirito, anche se si ha la voglia, di farmi da mangiare, di cucinare, di prepararmi il pranzo a mezzogiorno, con lei ovviamente, e la sera. Io non ho bisogno che nessuno mi curi, perché mi faccio la barba la mattina, so stirare meglio. Quindi qual è la sua domanda, Fabio? Siamo in chiusura. È questa: perché io devo pagare tanti contributi, tante ferie, tanti giorni di riposo, quando costerei molto di più se dovessi essere ricoverato in una casa di riposo? Grazie Fabio, grazie. Francesca Padula. Perché la signora però che lavora da lui evidentemente ha comunque diritto a delle tutele, per cui i contributi per il lavoro domestico sono un obbligo, e evidentemente, forse probabilmente e sicuramente, come dicevamo prima, da riparametrare, da aumentare la parte che poi si può dedurre, quindi la parte che il fisco può scontare, soprattutto negli anziani. Renata da Verona, velocemente, lei voleva praticamente dire che è una buona idea questa agenda, se leggo bene quello che mi suggeriscono in regia. Sì, siamo un'associazione con una finalità, dare un aiuto alle famiglie, per cui è dal 2002 che noi abbiamo un servizio di accoglienza anziani nella nostra sede operativa del pomeriggio, nel pomeriggio, tanto è vero che il servizio si chiama Filò del pomeriggio. Renata, ho 30 secondi. Accogliamo i malati di Alzheimer e le loro badanti, e attraverso questa nostra aggregazione abbiamo un rapporto molto favorevole con le badanti, anche perché noi volontari siamo formati proprio per questa malattia. Grazie Renata, mi dispiace moltissimo interromperla, ma davvero mi sfumano, quindi la ringraziamo per il suo contributo, ringraziamo anche gli ospiti che sono stati con noi oggi in regia, Fabio Cantadori, in redazione Gaia Romani e Valeria Coffaro. Veramente tutto per oggi, domani torna Salvadanaio.